è che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde! La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. A proposito di Grillo Parlante, caro Parenzo, ma vogliamo ascoltarlo Napolitano che rimprovera in maniera pazzesca, ne abbiamo già parlato ieri, che parla male del Movimento 5 Stelle. Cioè, come si fa? Lo ripeto, lo ribadisco, un Presidente della Repubblica che entra nel merito del comportamento di un movimento politico semplicemente perché questo movimento politico, votato da oltre il 20% degli italiani, si permette di criticare la proposta di amnistia, di indulto, dicendo che è per Berlusconi. Sarà una valutazione sbagliata, ma è sempre una valutazione che fa parte della discussione politica. E cosa fa il Presidente della Repubblica? Si mette là a discutere, questo va bene, questo va male, voi non siete dalla parte della gente. Ma, oh, ma di che stiamo parlando? Dai. Coloro i quali pongono la questione in questi termini vuol dire che sanno pensare ad una sola cosa, hanno un pensiero fisso e se ne fregano degli altri problemi della gente e del paese. Vuol dire quelli che dicono così, che non sanno quale tragedia è quella delle carceri, va bene? Non ho altro da dire. C'è la rabbia di Napolitano, la rabbia di Napolitano del Presidente della Repubblica. Avete sentito, eh? Pronto a pagare al diavolo il grillo parlante che parla a tutta la gente, che parla e vende parole che solo Pinocchio non sente. Per parlare di cose meno serie, è tornato a farsi vivo il signor Red Ronnie. Sì, Red Ronnie. Cioè, tornava a farsi vivo, era una sua trasmissione, non so che quale emittente clandestina, di qualche giorno fa, via web, via non so che, per carità, va tutto bene, però insomma, no, l'ascoltano lui e qualche altro, e pochi altri, signor Red Ronnie, dice: mi registro quando parlo con Cruciani, a parte che io non t'ho mai chiamato nella mia vita, mai, t'avrò chiamato una volta per invitarmi, mi registro, ma registrati pure, cioè, registra, fai quello che vuoi, Red Ronnie. Ti faccio vedere, esempio qui. Questo qui sono io al telefono con a parte il fatto che, vedi, con Cruciani, questo qui, solo che io sto attento, io mi registro loro, perché non voglio manipolazione, vedi? Cioè io so con chi ho a che fare, quindi adesso non so cosa stiamo a sinistra, ti fava uno di AN, quindi sai, ormai non esiste più questa cosa. Parenza, capito? No, ho capito che c'è molta confusione sotto il cielo, cioè capisco che è un uomo senza ideologia. Allora, adesso vediamo perché sono un uomo senza ideologia secondo loro, ok? Puoi registrare quello che vuoi quando, ove mai dovessi chiamarti in privato, signor Red Ro, ove mai dovessi chiamarti, puoi registrare quello che ti pare, registra pure, non c'è problema. Vogliono sapere con cosa mi pulisco il culo, stai zitto un attimo, voglio sapere con cosa mi pulisco il culo. Cosa hanno detto il giorno dopo la zanzara? Non l'ho ascoltata, ma mi è arrivato un tweet. Sono detto che sono curioso di sapere con cosa ti pulisci il culo. Cioè, di tutta sta frase hanno preso la merda. Cioè, pensa nel coso, no? Quindi alla fine, ma è un detto famoso che coi giornali ti pulisci il sedere il giorno dopo, cioè, eccetera. Purtroppo queste cose rimangono. Ma queste cose rimangono, sei stato tu a utilizzare quell'espressione che con il giornale non so quale altro quotidiano ti pulisci il culo. Non siamo stati noi, poi abbiamo giocato, ironizzato su questa cosa. Ma si vuole, cioè, se anche Red Ronnie si prende così sul serio, cosa dobbiamo fare noi, Davide? Cosa dobbiamo fare? Ma stiamo parlando, però adesso voglio dire, non è che forse stiamo parlando un po' troppo importante, è una persona simpaticissima, il Ronnie. Sì, però David, o si sente in maniera decente, oppure è meglio non fare oggi nulla, cioè, o si sente in maniera decente sta telefonata, oppure, perché se no si sente un cazzo, sei dentro uno scantinato, vuoto, non si sente nulla. Era ospite da Red Ronnie anche Favia, quello dell'ex dei 5 Stelle. Senti cosa dice, senti. Era radicale, lo sai. Era radicale? Davvero? Era un protetto di pannella. E come mai era protetto di pannella? Attenzione, perché ti scappa da ridere? Perché era protetto di pannella? No, protetto nel senso buono, che, come dire, pannella è... che pannella... Tu ridi, io so perché tu ridi. No, che io non lo so invece perché... No, tu lo sai perché... Rido perché ridi. Perché pannella, diciamo... Ma pannella ha protetto... di comunicazione, ha molto sveglio. Ha protetto anche Capozzone, pannella, Li riteneva dei giovani di belle speranze. Ah, dei giovani di bei giovani di belle speranze. Ha protetto anche Rutelli. Insomma, non lo so. Anche Rutelli ha protetto. Diciamo che sì, sono tutti nati in scena radicali. Cioè, fanno anche le illazioni, capito David? Fanno anche le illazioni sui rapporti tra me e Pannella, ma ti rendi conto o no? Cioè, fanno anche le illazioni sui rapporti tra me e Pannella. Signor Favia, che non capisco perché ironizzi su questa cosa qua, il signor Red Ronnie, vabbè, ma chi se ne frega, in fin dei conti, chi se ne frega? Cucù, scusate se vi ho disturbati. Ma c'è chi è incorreggibile, allergico a tutte le prediche. Abbiamo già un ospite collegato, intanto. Molto bene. Livia Turco, quelli del Movimento 5 Stelle sono dei cretini, senti. Che predica la sua morale. Bonafede dice: quello di Napolitano è un diktat politico che rischia di servire solo a sanare la posizione di personaggi famosi, soprattutto anziani proprietari di televisione, dice un altro grillino. Ma io dico che c'è un circuito. Ha detto cretini? Ma veramente non trovo altra espressione. Cretini. Vuol dire non sapere nulla delle carceri italiane. Vuol dire non sapere che nelle... Allora, se uno non si adegua alla vulgata, per cui bisogna essere d'accordo con l'amnistia e l'indulto, alla vulgata, diventa automaticamente un cretino. Se uno pensa che magari lo fanno per salvare anche Berlusconi, che c'è questo retropensiero, è automaticamente un cretino. Ma tu ti rendi conto a che punto siamo arrivati? Sì o no? A me l'unica cosa che mi fa imbestialire sono quei giornali del centrodestra che sono sempre... Vabbè, l'hai già detto ieri, dai, l'hai già detto ieri, andiamo avanti, si sente male tanto, dunque è meglio limitarti lì, si sente male, per non dire che non si sente un cazzo. 800 24 00 24, è con noi Don Paolo Farinella, diocesi di Genova, collaboratore di Micromega, ben ritrovato alla Zanzara, buonasera. Buonasera. Come andiamo, caro Don Paolo? Come vuole che vada, col Negus imperatore di Etiopia Giorgio II. Ha visto, sì, ha sentito. Come sì. Vuole che si vada, perché ha dimostrato di avere lui il chiodo fisso. Con questo attacco al chiodo fisso di Berlusconi, con questo attacco a 5 Stelle che un presidente non si può permettere. Lo so. Lui è il presidente, dovrebbe essere presidente di tutti i partiti, al di sopra delle parti dovrebbe essere. È certo. Invece ha sempre stato contro il Movimento 5 Stelle. Ora uno può condividere o non condividere, ma è un partito che è rappresentato in Parlamento dal 25% degli italiani, cioè il 25% degli italiani. E come lo definisce lei il signor Napolitano? Il Negus, imperatore d'Abissinia, che provvisoriamente governa l'Italia come Giorgio II, re di Borbonia. Cosa devo dire? Ma vuole salvare Napolitano, secondo lei? Vuole salvare Berlusconi. Ma gliel'ha detto già all'epoca, quando fece la lettera, no? Beh, adesso... Ti ricorda quando gli mandò la lettera e gli dice che in caso che gli arrivasse la richiesta lui era disponibile, ma chi cacchio glielo faceva dire? Vabbè, comunque in ogni caso Berlusconi ce l'ha anche con Napolitano, perché sembra che non abbia, secondo Berlusconi non ha fatto tante cose per salvarlo, per cui anche questa cosa non è così sicura, come dice lei, ma caro Don Paolo. Potrebbe anche non essere sicura, però i tempi sono molto sospetti, ci lasci dire che insomma poteva risolvere il problema delle carceri benissimo in un altro modo, abrogando per esempio almeno due leggi o riformandole, quella cretina, quella legge come si chiama, la ex Cirielli per esempio, e la Giovanardi Fini, che mettono, fino adesso hanno messo in carcere 120.000 arresti unicamente perché hanno equiparato le droghe leggere e le droghe pesanti. Ma lei si è mai fatto uno spinello, Don Paolo? No, io non l'ho mai fatto, né mi interessa, io non fumo, neanche da ragazzo. No, sì, ma una volta l'avrei desiderato per sperimentare una cosa, ero ancora seminarista, ma non l'ho mai fatto. Parenzo, che dici di Don Paolo, del mitico Don Paolo? Ma dico che Don Paolo, in verità, oltre a occuparsi delle anime della sua parrocchia, dovrebbe sapere che il presidente Napolitano ha fatto semplicemente un richiamo a un partito politico, primo, e la seconda cosa che deve sapere è che il presidente Napolitano, un prete, dovrebbe essere a favore dell'amnistia e dell'indulto, tra l'altro, se proprio volessimo, come dire, puntare sulle questioni che più lo riguardano, più della sua vicina alla sua bottega. Vabbè, non è niente da dire, Don Paolo, perché io non ne vedo anime in giro. Scusi Don Paolo, ma Berlusconi che chiede i servizi sociali, ormai è ufficiale, ma secondo lei li farà i servizi sociali o no? Ma ci credete ancora alla Befana voi? Ci credete alla Befana? Sì. Perché? Se lo dessero a me lo metterei a fare catechismo. In che senso? Gli farei fare un corso di morale sociale. Un corso di morale sociale? Ma dove? Sì. Qui nella parrocchia. Come rubare, nella sua parola, pure lei si offre per... No, assolutamente. Si offre pure a lei con Don Mazzi, che pensa di Don Mazzi? No, Don Mazzi sta facendo il gioco del ruolo, perché insomma era da un po' che non si vedeva e dunque? E sta buttando, è una buttata, sanno benissimo che non lo manderanno mai con mille scuse, le scuse della sicurezza, le scuse di qua, le scuse di là. Cioè è un buffone secondo lei, un giullare, perché adesso lo hanno ritardato l'esecuzione dei servizi sociali intorno a Natale. Nel frattempo arriverà l'amnistia e l'indulto e l'amnistia insieme. Non siete seri per niente. Senta, Don Paolo Farinella, prete della diocesi di Genova, collaboratore di Micromega, secondo lei ci vuole l'impeachment per Napolitano? Cioè è diventato ormai un... Ormai è diventato, io non lo so che cosa è diventato o è rincoglionito oppure semplicemente si è montato la testa con il secondo mandato, ma è chiaro che lui no. Secondo lei che cos'è? Più rincoglionito? Più rincoglionito si è montato la testa? Volevo rispondere a quello di prima. A lui è per la prima volta fatto un messaggio alle Camere, che è l'alto di magistero più alto del Presidente della Repubblica. Senza ricordarsi che lui nel precedente settennato ha firmato tutte le leggi che hanno riempito le carceri, senza fare senza fare la minima critica. Però scusi, al di là di questo, alla legge Giovanardi. Vabbè, non è che il Presidente della Repubblica si può opporre a tutto, Si può opporre a tutto, però poteva fare anche una critica, perché il problema delle carceri ce l'abbiamo da sempre, in modo particolare. Ma lui è da tempo che fa queste osservazioni. Però scusi Don Paolo, io le voglio chiedere una cosa. Secondo lei più rincoglionito oppure si è montato la testa? Quale delle due? Tutte e due, 50-50. 50-50, Parenzo. Ma come si permette di dare del rincoglionito, un prete che dà del rincoglionito al capo? Come lui si permette di dire che se ne fregano degli italiani? Ha ragione. Ma lei è il prete dei Grillo, non ho capito, lei è Don Grillo? Ma lei è Don Grillo, non mi capiva. No, io non sono Don Grillo, io sono semplicemente per il rispetto delle istituzioni. Ma quale la lei sembra Don 5 Stelle? Il Parlamento. Non pretende sembra rispetto. Don Casaleggio, Don 5 Stelle, lei faccia il prete. Ma non mi interessa questo, non mi interessa. Potrebbe anche ma potrebbe ti pare anche che arriva a essere dato il ricoglionito al capo dello Stato. Ma dove siamo? Oh. Ma dove siamo? Quello è in Parlamento, il Movimento 5 Stelle è un partito che è rappresentato, che è in Parlamento, rappresenta Don la Farinella nazione. Della diocesi del 5 Stelle, altro che della diocesi che dovrebbe essere sullo stesso piano di tutti gli altri partiti. Ma dai, ma almeno Don nella considerazione. Sì, lei è il cappellano. Poi puoi condividere o non puoi lei condividere. Lei è il cappellano contrario di casa, eccetera, eccetera, ma... Ma ha ragione Don in questo ha ragione Don Farinella. Gli date il rincoglionito e sarà possibile dare del rincoglionito al capo dello Stato oppure c'è il vilipendio? Ma non lo so, io dico c'è il vilipendio. Se lui tratta così un partito che tra l'altro non l'ha mai fatto. Non l'ha mai fatto, è andato in Polonia. Però scusi un attimo Don Farinella, lei davvero non crede a Berlusconi e ai servizi sociali? No. Manco vedrete, se lo vede. Vedrete, manco se lo vede. Guardi, proprio quando subito dopo la sentenza ho scritto che avrebbero trovato in tutti i modi per salvarlo e lo salvano. Ma secondo lei anche dovrebbe andare in galera? Insieme tra... Fosse per lei finirebbe in galera? Io lo metterei in galera subito. Dopo la sentenza deve andare in galera. Dopo la sentenza in terzo grado. Ma in che modo? In che modo? Più stato di diritto di questo, che cosa si vuole? Ma lei butterebbe la chiave? Sì, tranquillamente. Sì. Butterebbe la chiave? Anche perché finita la pena la porta si può scardinare, no? Se finisce la pena. Però la pena la deve finire, perché qui non abbiamo più nessun diritto né di pena né di giustizia né di niente. Ma scusi, Alfano ha visto che si è ribellato a Berlusconi? Io sono andato quest'estate sono andato alle carceri di Regina Coeli per una mattinata con un incontro con i carcerati. Lì ho visto i disperati. Sì. Ho visto i disperati. Vabbè, allora... E io li ho invitati a scrivere tutti i carcerati, 65.000 carcerati che scrivono a Napolitano dicendo se date la grazia a lui dovete darla anche a me. Vabbè, tanto non l'avrà la grazia su certo che non l'avrà, perché trovano l'amnistia, fanno come Benedetto XVI. Vabbè, ma diciamo la verità, fosse per lei, che fine farebbe Berlusconi? In carcere, subito. E dovrebbe restituire tutto quello che ha rubato agli italiani. Tutto? E quanto ha rubato secondo lei? Tutto. Si parla di... lui è stato condannato per un anno perché ha fatto una legge che gli ha accorciato di 3 anni i 4 anni a cui veniva condannato. Quindi bisogna calcolare tutto insieme. Vabbè, comunque Parenzo, secondo te la cosa grave è che ha dato del rincoglionito al Presidente? La cosa grave è che Don Farinella, ma non perché è Don, anche quello sarebbe già grave, ma dare del rincoglionito al Capo dello Stato a casa mia, per come sono fatto io, è una casa grave, una cosa grave. Dopodiché, siccome lui ma ormai certo è grave, lo dico anch'io che è grave. Siccome lei ormai è diventato il ciambellano. Non avrebbe dovuto permettersi di dire ad un partito che è rappresentato in Parlamento, offendendo il Parlamento, cioè una istituzione distinta dalla Presidenza della Repubblica e dagli altri poteri, anzi addirittura è ancora superiore, perché siamo in una Repubblica parlamentare, non deve permettersi di dire che questi non gliene frega niente degli italiani. Ma andrebbe messo sotto inchiesta il Presidente della Repubblica? Io penso di sì, perché questo è un attentato all'indipendenza del Parlamento. Hai capito Parenzo? Ma Alfano ha visto che si è ribellato alla fine a Berlusconi? Alfano si è ribellato perché il cagnolino Dudu per l'esterno si è ribellato, ha fatto bau e... Cioè lui è tipo Dudu insomma? Ma secondo me certo. Forse Dudu è più simpatico. Addirittura? Sì. Ma perché si è ribellato? Scusi, non ho capito. Perché alla fine è una manovra che hanno fatto all'interno, perché Berlusconi voleva far fuori gli altri, però siccome Berlusconi non si assume mai la responsabilità di quello che fa. Sì. E allora hanno giocato questa manfrina per arrivare a mettere in crisi Letta, nipote, per poterlo rieleggere e fare, è stata una sceneggiata. Lui lo sa sa, lui lo sa. Penso di sì, eh. È un'anteprima qui. Sì. Allora Berlusconi sceglie i servizi sociali per scontare la pena e Don Mazzi gli consiglia di andare a raccogliere i pomodori. I pomodori, non so se avete capito. Soltanto che non è più stagione dei pomodori. Che gli facciamo fare a quest'uomo? Forza, Mimmo da Latina. Ma facesse quello che gli pare, a me che me frega. Non lo so, mi dica lei, scusi. No, io non gli dico niente. Io sto dicendo che a me me frega niente. Ho capito, ma se sbilanci, trovi una soluzione. Ma se... perché me devo sbilanciare? Non lo so, me lo dica lei. Cioè... Ma dico io, ma chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? Interesse nazionale, c'è sta. Ma chi glielo ha detto? Ma chi io dico che sto bruciando. Io me ne frego, arrivederci. Ma se non gliene frega niente, che chiama a fare? Bifolco, dai, un altro. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Gli amici di Asgana Way su Radio DJ che fanno un po' la parodia, ma ci sta tutto, li abbraccio fortissimo. La parodia mi sembrava di sentire, non avevo notato la differenza, diciamo, tra quello che facciamo in genere, no, cioè non mi sembrava. Mi sembrava lei. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Oh no, ecco, a proposito, signor Almirante, stasera se lei guarda Rete 4 alle 21:15 troverà un po' di busti. Magari c'è pure quello del signor Giorgioli, No, sì, sì, è vero, è vero. No, è vero, è vero. Niente, perché questa volta è vero. Su Rete 4 alle 21:15 se lei accende, signor Almirante, troverà dei busti. Me l'hanno segnalato e magari sarà pure un cambiamento forte lei, Ma come ci permette? La no, ma questa volta, signor Almirante, è davvero così. Se lei, se lei si collega questa sera con Rete 4, 21:15 Radio Belva, basta adesso questa promozione, questa marchetta del cazzo. A parte questo, ma è importante dirlo comunque. No, ma è vero, io lo dico solo per il busto. Ecco, diciamolo solo per il busto. Signor Almirante, lei questa sera magari trova quello giusto, perché noi lo abbiamo, ne abbiamo diversi lì piazzati, diversi busti. E magari, hai visto mai? Ma c'è ancora Asgana Way lì? Cosa se ne fa uno? Ma c'è ancora Asgana Way o no? Asgana Way, Radio DJ che ci pigliano per il culo. Chi c'è? Germana Belluno. Ah, andare, come ha detto Mazza, andare a raccogliere i pomodori là, com'è? Sì, ho capito, signora, ma i pomodori non è più stagione. Vabbè, va a raccogliere mele. Le mele, le castagne. Sì. Che è nano della Loager è diventato. Vabbè, oh. Cioè, altri prodotti, non so, invernali, il cavolo cappuccio, che gli viene in mente? Sì, bene, è giusto. Sì, che facciamo? La valle degli orti, dai, metti giù l'uomo del monte qua. Danzano come zanzare. Titoli del TG3. Queste ombre. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Letta a Lampedusa con Barroso e una delegazione europea. Contestazione degli abitanti dell'isola. Il premier, rivedremo la Bossi Fini. Quella di Lampedusa è una tragedia europea, dice il presidente Napolitano. Serve uno sforzo comune, l'immigrazione al prossimo vertice europeo di fine ottobre. L'amnistia mai per il Cavaliere, dice Epifani, grillo contro il colle. Non è super partes, da luglio proposta 5 Stelle sulle carceri. Il ministro Cancellieri, ospite del TG3, conferenza stampa dei ministri PDL. No ai disegni neocentristi, unire tutti i moderati, nessuna conta, l'ira di Bondi. Al Consiglio dei Ministri la manovra anti-deficit vale 2 miliardi, si cercano le coperture, smentita l'ipotesi di aumento delle accise sulla benzina. Da oggi in Turchia il velo non è più bandito negli uffici pubblici, il governo filo-islamista cancella uno dei simboli della Repubblica Laica fondata da Ataturk 90 anni fa. Il 9 ottobre del 63 una frana cade nell'invaso della diga El Vajont, interi paesi spazzati via, 1910 le vittime, ma non fu una tragica fatalità. Zanzare è quell'odioso insetto che non mi fa dormire. Finisce a insulti tra Giulio Giorello, il filosofo Giulio Giorello, e Carlo Giovanardi. Sentite. Prima ho sentito dire a una persona che condivide le proprie idee, beh, per forza, se sono le sue, ma sono sempre delle battute. Sono battute molto divertenti, da un spettacolo che mi sembra la dimensione di certi nostri politici italiani, non di tutti, sì, sempre meglio degli intellettuali come lei. Guardi, no. Un insulto da parte sua per me. Beh, è un complimento. Anche per me è un complimento, perché se lei l'avete su questo mi piano sta copiando, mi se fa molto piacere. Su questo piano casca male con procediamo me, con i complimenti casca allora proprio male. Che scontro, ragazzi, che scontro. Ancora, ancora, Giorello versus Giovanardi. Una figura piuttosto diversa del nostri politicanti da strapazzo, Galileo Galilei. Qual era un intellettuale che ha cambiato il mondo con la sua intelligenza? Ma chi è questo qui che continua a insultare? Fu costretto a autotradire. Ma come si permette di continuare a insultare? Lui è intellettuale. No, ma io sto parlando dell'intelligenza di Galileo Galilei. Se uno si fa un dibattito, si ragiona, non si viene qua a insultare. Intanto ha cominciato lei a dare delle etichette, quindi vi parli per lei e impari che non si interrompono le persone. L'intellettuale non è proprio un insulto ancora. È inutile dire, cari signori, cari amici della Zanzara, caro Parenzo, che la notizia del giorno è un'altra, però. È una imperdibile intervista di Francesca Pascale sul settimanale Oggi, in cui riferisce che cosa? A parte il fatto che nel letto con Silvio scalcio come la Mondaina, vabbè, quelle sono dettagli, sono sì, ma va bene, d'accordo, però non è proprio dimensione. Sì, non è proprio bellissimo, però la Mondaina, Vianello, cioè, lei c'ha 28 anni, di che parliamo? La che cosa noia, che barba che noia. Sì, però la cosa fondamentale no, così, è che noia, che barba che la invece immagini il cagnolino che scorrazza. La cosa fondamentale è un'altra. Dice la Pascale, chi gli faceva la spesa pagava i fagiolini, amico mio, 80, poi a parte li mangia o no i fagiolini, forse nel menù tricolore ci stava, pagava i fagiolini 80 euro al chilo, sono intervenuta. Ma che cazzo di fagiolini erano? Ma non lo so, 80 euro al chilo, 80 euro al chilo, amico mio, ma tu pensa alla cresta che facevano su questa roba qua, chi è che faceva la cresta, perché il poveraccio di verduraio... non, certamente non sarà stato lui, non è che gli metteva 80 euro al chilo, sarà 8 euro al chilo, no? 83, 80 euro male al chilo, 80 euro al chilo, ma hai letto male di sicuro, ragazzi, questi qua facevano la cresta, il povero verduraio, i suoi fagiolini che valgono, non so, 1-2 euro al chilo, in realtà valgono 80 euro al chilo. Vabbè, abbiamo ingannato anche il signor Don Mazzi, no. Il quale, dopo aver fatto un po' lo spavaldo, dopo aver detto Berlusconi dei pulire i cessi, i pomodori, eccetera, eccetera, alla fine, insomma, l'abbiamo fatto intercettare da un finto avvocato Ghedini molto bravo, nei prossimi giorni vi svelerò chi è, il quale, insomma, gli ha fatto dire che in realtà lui no, scherzava, non deve raccogliere i pomodori, non deve pulire i cessi e che può benissimo mangiare il menù tricolore, può portare la Pascale, può portare Duduzzo, può fare quello che vuole. Don Mazzi, è su. È chiaro che dobbiamo, come dire, poter avanzare alcune richieste imprescindibili, no? Esempio, sì, dai. Beh, per Pronto? Esempio, no, abbiamo letto l'intervista della raccolta sulla raccolta dei pomodori. Insomma, sì, ti ricordi? No, ma ti ricordi dei pomodori, parlando... Siccome è partita. No, ti ricordi che stiamo sempre parlando sta diventando, di un uomo, sta battuto, sta diventando una menata che non finisce più, perché è sì, chiaro ma, che non ma... che non viene, è chiaro che non viene a piantare i pomodori, dico. Anticipazione dello scherzo integrale che manderemo in onda dopo le 20. Integrale dello scherzo. Ghedini che beffa, finto Ghedini che beffa Don Mazzi. Dove andiamo? Jan da Torino. Jan, che nome è Jan? Vabbè, Jan. Che sta facendo? Prego, con comodo, Sì, ci siamo. Dica. Ecco, sì, io volevo chiedere, l'altro giorno quando parlava, insomma, dei clandestini che vengono qui nel nostro paese, insomma, e che in un certo senso se lo meritano, no? Sì. Come dire? No, non ho detto se lo meritano, se lei lo ripete la querelo. Ah, d'accordo, che ce la vanno a cercare sostanzialmente. No, non ho detto nemmeno questo, se continua a ripeterlo la porto in tribunale, non ho mai detto una cosa del genere, mai, ha capito mai? No, lei ha detto, se non sbaglio, che insomma questi poveri cristi... Non ho mai detto, lei non ha sentito, ma di che stiamo parlando? Non ho mai detto poveri cristi, al massimo ho detto dei disgraziati, ma disgraziati in senso buono, non in senso negativo. No, sanno però, a cosa vanno incontro, questo ho detto, esatto, su, così sanno a cosa vanno incontro, e che sì, cosa vuol certo, dire? Gli adulti. Vuol dire. Si mette, no, in conto, se me lo spiega, si mette, no? In conto il fatto di poter crepare. Questo ho detto. Si mette in conto il fatto di poter crepare. Siccome prima erano vivi, ma non è che stavano tutti morendo di fame lì con l'acqua alla gola, no? Erano vivi in condizioni molto complicate, molto difficili, ma vivi. Si imbarcano su un battello dove ci sono dei signori, degli scafisti, che non fanno il loro bene, no? Cioè vogliono solo guadagnare dei denari, appunto, eccetera. Per cui sanno benissimo a cosa, cioè, vanno incontro. Ma non sto dicendo nulla contro di loro, sto dicendo un dato oggettivo. Sei ancora a casa, sì. In montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare. Una parola d'uma di la te più vista in città e se no dormire. Zanzare. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Color che niente fare, zanzare. Te vengi in altro guardi, no, come per me riempisce te. Ma vogliamo rimettere il Presidente della Repubblica che dice a quelli del 5 Stelle che se ne fregano della gente semplicemente perché non sono d'accordo con lui sulla questione della amnistia e indulto? Lo vogliamo rimettere, sì o no? Rimettiamo. Coloro i quali pongono la questione in questi termini vuol dire che sanno pensare ad una sola cosa, hanno un pensiero fisso e se ne fregano degli altri problemi della gente e del paese. Vuol dire quelli che dicono così, che non sanno quale tragedia è quella delle carceri, va bene? Non ho altro da dire. Un napolitano furibondo nei confronti di quelli del 5 Stelle. 800 24 00 24, è con noi il senatore del Partito Democratico Felice Casson. Buonasera. Buonasera a voi. Come va? Ma bene, siamo in Senato, si sta continuando a votare, quindi vediamo che succede. Senta, senatore Casson, ma napolitano non commette un errore madornale quando interviene con un battibecco con Grillo sulla questione dell'amnistia e dell'indulto? Ha detto una cosa, ci sarà un messaggio, so, propone al Parlamento di fare l'amnistia e l'indulto oltre ad ulteriori provvedimenti. C'è bisogno di battibeccare dicendo che quelli non fanno, se ne fregano del paese o no? Ma è, diciamo che è possibile che saltino forse i nervi a tutti quanti, perché sottoposto ad attacchi, critiche, una persona reagisce in un modo piuttosto che un altro. Cioè anche a lui sono saltati i nervi, secondo lei? Ma è possibile, è stata una risposta molto forte. E diciamo, anche infelice, fuori, secondo fuori me. Fuori dal protocollo, diciamo, fuori dal protocollo. No, non si spinge a dire infelice? Ma si può dire quello che si vuole, cioè il Presidente della Repubblica, scusi senatore Casson, quello che penso io è questo, e credo che insomma uno se non hai paraocchi non è per forza, come dire, no, ossequioso nei confronti del Quirinale. Uno deve essere rispettoso ma non ossequioso a prescindere da quello che dice. Qui abbiamo una forza politica, certo, ha preso il 25%, il Presidente Repubblica ha preso c'è una forza politica che ha preso, ma anche se avesse preso il 2% o il 3% non cambia nulla, insomma, che rappresenta un certo numero di cittadini del paese, e il Presidente della Repubblica dice voi ve ne fregate dalla gente semplicemente perché loro hanno espresso delle critiche anche forti naturalmente su questa questione dell'amnistia e dell'indulto. Ma le pare possibile a lei? No, io dico che intanto la critica politica deve essere consentita in qualsiasi caso nei confronti di qualsiasi persona, nei confronti di qualsiasi ruolo istituzionale, e la critica però deve essere fatta in maniera corretta. Vabbè, d'accordo, però senza attacchi alle persone. Poi se ci sono gli attacchi, poi ognuno si esprime come è proprio costume e abitudine, come ritiene doversi esprimere. Se in certe situazioni a qualcuno possono saltare i nervi, insomma, non mi pare che siano grandi cose o crolli il mondo. Se è una dialettica forte, più o meno simpatico antipatica, ma insomma non mi pare che il problema sia questo, il problema è quello dei contenuti. Vabbè, questo non c'è dubbio, però è un errore del Presidente della Repubblica, uno non è che si mette a battibeccare con Grillo, su, dai. Vabbè, ma battibecca, se vuoi rispondere così, risponde così, e diciamo che fuori protocollo. Fuori protocollo. Parenzo, sei tornato? Beh, poi. No, dico a Casson, fuori protocollo, ma quante volte anche altri capi dello Stato hanno ripreso per le orecchie alcune forze politiche, anche con Berlusconi l'ha fatto altre volte, Napolitano, cioè dove non così direttamente, direttamente. Se parliamo di capi dello Stato e lo chiedete a me, io ricordo Cossiga ha detto di tutto, molto sì, sopra sì. le righe. E quindi Napolitano è sulla strada di Cossiga? No? No, non è sulla strada di Cossiga, ma insomma c'è stato ben di peggio, ecco, se vogliamo fare valutazioni di questo tipo. Però scusi Casson, a prescindere dal fatto che non si sa ancora se questi provvedimenti verranno fatti e se riguarderanno anche Berlusconi, mi sembra che lei dica innanzitutto sicuramente non, quando si fanno bisogna escludere Berlusconi, giusto? No, io faccio un discorso diverso, bisogna escludere privilegi o norme a favore di una singola persona. Vabbè, quello non si... non è scontato, perché al termine si può arrivare anche a valutare, a discutere di amnistia e indulto, però credo che il sistema processuale penale sia lo spazio e che vada posto rimedio a questo sistema, perché altrimenti interveniamo sull'ultimo segmento del sistema giustizia e non risolviamo il cioè male. Secondo lei con indulto e amnistia non si risolve nulla? Ma non si risolve nulla, si risolve per un po' di mesi, come è successo nel 2006. Per quanti mesi? Per quanti mesi? Nel senso che dopo 5-6 mesi si era tornati a un numero di detenuti che era sopra i limiti consentiti. A questo punto chiedo, non è forse il caso di prendere il classico toro per le corna e di dire vabbè, sistemiamo il processo penale, e sistemiamo il codice penale, depenalizziamo, cancelliamo le stupidate che ci sono in giro, rimediamo ai guasti della Bossi Fini, della Fini Giovanardi e interveniamo anche con questo indulto, certo, però in maniera generale nell'interesse di tutti, non certo di una singola persona. Cioè, ma scusi, un provvedimento generale come può essere nei confronti della singola persona? Come può essere? No, ad esempio faccio cioè i reati di Berlusconi vanno esclusi, no? Questo le voglio dire, i reati di Berlusconi. No, ma non è questo, guardi, è un discorso molto più semplice e anche lampante. Si sta discutendo, si discuterà il 19 ottobre alla Corte d'Appello di Milano della interdizione dei pubblici uffici di Berlusconi e si discute di questo perché l'indulto del 2006 aveva cancellato le pene, aveva comunque condonato tre anni di pena, però aveva lasciato intatte le pene accessorie come l'interdizione. Se nel fare il nuovo indulto si tenesse conto della situazione Berlusconi, qualcuno sarebbe tentato di inserire una norma a favore di Berlusconi. E questo ovviamente cioè bisogna lasciare fuori le pene accessorie? Io dico che comunque vanno tenute fuori, che ci sia Berlusconi o no, le pene accessorie devono essere lasciate fuori. Se si interviene perché la situazione carceraria è disastrosa, ed è vero, interveniamo sulla situazione carceraria disastrosa, però l'interdizione col carcere non c'entra niente. Per cui l'interdizione e le pene accessorie vanno comunque tenute fuori dall'amnistia? Per me dovrebbero essere dall'indulto, non dall'indulto, sì. Dall'indulto. Parenzo? No, la cosa che non capisco. Ma secondo lei c'è anche un problema di tempi, perché è un po' sospetta questa cosa. È vero che il problema c'è da tempo, eccetera. Ne parliamo da tanti mesi. Ho capito, però proprio adesso non è un caso, forse. Qualcuno può avere un sospetto legittimo o no? Ma che ci possano essere dei sospetti è chiaramente comprensibile, però io mi ricordo, lo ricordavo anche un'ora fa, mi pare, un'intervista di Radio Radicale. Detto sono ormai 2 anni, mi chiedete sistematicamente ogni qual tanto la stessa cosa. Su amnistia e indulto, io rispondo a processo penale, depenalizzazione e poi anche amnistia e indulto. Però sono cose lunghe quelle là, sono cose lunghe quelle. Vabbè, ma perché manca la volontà politica di sistemare la giustizia penale? Non faccio accuse a uno o all'altro, faccio un discorso complessivo. Bisogna decidere di sistemare il processo penale. Parenzo? No. La cosa che non capisco è questo fuoco di fila che si è scatenato contro il presidente Napolitano. Cioè questa è la cosa che per cui si sospetta, c'è il sospetto che questa cosa possa intaccare, possa fare un favore a Berlusconi, non è che gli elettori del PD subito dicono se solo osate farlo saranno cavoli amari per voi. Cioè, questo sospetto qui, dite una volta per tutte, è fondato o no? No, non è fondato perché ripeto, se ne discute da un mucchio di tempo e che sia stata fatta questa proposta. Io ho sentito ieri il messaggio del Presidente della Repubblica letto direttamente in Senato dal Presidente Grasso. Non c'era una parola che potesse far capire che il tutto poteva essere a favore di Berlusconi in una maniera o nell'altra. Vabbè, ho capito, certo, non è che si fanno le cose. È chiaro che si scatenano le polemiche ed era anche scontato, se vogliamo. Però il problema più che del Presidente della Repubblica è delle Camere, del Senato e della Camera dei Deputati. Quando verranno portate in discussione queste norme, e bisognerà fare delle norme attente. Comunque, sicuramente, secondo lei, non può riguardare la questione della... dei servizi, dico, delle pene accessorie, dai. No, no, dico, dal messaggio del Presidente della Repubblica non c'è, non c'è una parola in questo senso, e comunque per quanto mi riguarda, ma non solo da adesso, le pene accessorie devono rimanere fuori dall'indulto, perché se il problema è la situazione carceraria, interveniamo sul carcere e non sul resto. Per cui lei non vedrebbe come uno scandalo il fatto che Berlusconi, i reati di Berlusconi fossero inseriti all'interno di questi provvedimenti, solamente che deve rimanere... non sono mai stati inseriti, la frode fiscale non è mai stata inserita. Cioè è sempre stata fuori? Un po' è sempre stata fuori, perché è una pena alta, fino a 6 anni di reclusione. E la concussione è lo stesso, perché è una pena ancora più alta. Sì. Quindi nella normalità di amnistia e indulto, dovrebbero rimanere fuori. E lei si opporrebbe invece, lei si opporrebbe nel caso qualcuno volesse inserire questi reati invece? Certamente sì, perché certamente ma anche per un carattere di generale, perché non si può alzare il beneficio in maniera così elevata, perché vorrebbe dire far uscire anche persone pericolose dal carcere, questo non ce lo possiamo permettere. Va bene, grazie, grazie a Felice Casson, senatore del Partito Democratico, grazie. Prego. La zanzara che punge nel vivo, ripiena di sangue. Luca dalla provincia di Belluno, buonasera. Buonasera direttore. No, non c'è nessun direttore qua, dica. Allora è diretto lei? Vada, non sono diretto da nessuno, mi dirigo da solo, vada. No, dico, se lei non è direttore è diretto da qualcuno. Cioè, o uno dirige o è diretto, le sembra? O uno è dirige oppure è diretto, sì, beh certo, c'è un direttore, non c'è. Quindi lei è diretto? Sono diretto da qualcuno, sì, formalmente. Ecco, allora è così. Ok, abbiamo sistemato questa nozione semantica iniziale. Allora, scusi, stavo correndo. Allora, io volevo intervenire sulla problematica della TAV. La violenza, alla violenza si risponde con violenza, e l'uso è legittimo. Vabbè, ma lei è la stessa legge che legittima. Sì, lei sta legittimando. Lei sta dicendo che si può usare la violenza. Bene, ma noi abbiamo i numeri di telefono, conserviamo qui, cioè non c'è problema. Sì, sì. È la stessa legge che dice, ad esempio, che se uno mi aggredisce, io posso, per legittima difesa, difendermi. E da qui è la legittimazione nelle cause di giustificazione del codice penale, con le quali si va a legittimare l'uso della violenza contro la violenza. Ad esempio, se lei mi aggredisce verbalmente, io posso difendermi verbalmente. Di contro, se lei, se lei mi aggredisce invece, supponiamo con un bastone, con una cosa qualunque. Ma nessuno aggredisce con violenza. La TAV è stata decisa da organi democratici, votata da governi legittimi, ha capito o no? Voluta da governi legittimi e votata da parlamenti democratici. Non si arrabbi. Ha capito o no? Lo ha capito o no? Non c'è nessuna violenza. No, evidentemente no. Io sto esprimendo il mio pensiero e dico che alla violenza ci si può porre con violenza. Tutto qua. Non mi sembra una cosa scandalosa. Ma di contro è lo stesso codice penale che legittima questo. Ma dov'è la violenza iniziale? Scusi, la violenza iniziale dov'è? Ma ad esempio la violenza... C'è una violenza, c'è una metaviolenza, stanno a diverse tipologie di violenza. Ad esempio, se lei come conduttore, faccio per dire, mi mettesse giù in questo momento e non mi permette di esprimere, non mi permette di esprimere il mio punto di vista, eserciterebbe una violenza. Ma no, eserciterei il mio diritto legittimo a condurre la trasmissione come diavolo mi pare, capito? No, non è così, lei sa benissimo. No, non è così. Così invece. Dopo, così. Se chiaramente lei in un gioco delle parti, legittimo per l'amor di Dio, no, in nome dell'audience. No, ma non ma che c'entra l'audience? Si contrappone pure al suo interlocutore, e questo ci può stare. Però dopo, ovviamente. Vabbè, Luca, comunque ripassi il concetto di violenza. Grazie. Luca da Bergamo, un altro Luca, dai. Salve Cruciani Parenzo, anch'io sono Luca e io avevo chiamato per una cosa seria ancora qualche giorno fa, arrivo al sodo, con voi bisogna andare al sodo, era sul realismo di Cruciani in rapporto al buonismo di Parenzo per le barche, per la questione di quei suicidi, allora che è giusto che ci faccia vedere le cose in un certo modo, ma passati questi giorni si è trasformato il tutto in una canzoncina, adesso io non so se posso, che riassume uno stato d'animo più di humor contrapposto a questa serietà, la canzoncina è questa, cioè che mi impegno perché me la sono pensata, cioè, allora... Cruciani, Parenzo, cia-cia-cia, zanzare dal nero mantello, cia-cia, il vostro programma sei bello, cia-cia, sollazzateci ancora di più. Non mi metta giù, guarda che c'è impegno, cioè perché io vi voglio bene, ecco. Luca, un applauso finto, Luca, bisogna impegnarsi un po' di più, questa roba qua. Va bene, ok, riproverò, grazie, vi voglio bene. Un abbraccio proprio di come dire, Parenzo, un abbraccio... di incoraggiamento, no, di incoraggiamento, ma come lo dai. Si dà un abbraccio, come lo si dà alle persone che hanno bisogno di grande incoraggiamento, un abbraccio, sì, di incoraggiamento, di incoraggiamento. Giuseppe da Catania, proseguiamo in questa galleria, caro Parenzo, in questa galleria di mostri. Giuseppe, siamo da Catania. Caduti in basso, però vedo che la trasmissione non è più quella di una volta. Invita Farinella che dice una cazzata dietro l'altra, poi si parla di indulto e di carceri, e fa parlare i due Luca che parlano di cavoli a merenda. Comunque, Casson ha detto quello che si doveva dire in questi casi. Cioè? Cioè che l'indulto è utile nella misura in cui entro 4-5 mesi, 6 mesi, si depenalizza Bossi Fini, Giovanardi Fini, con buona salute di Giovanardi, ha 2000 volte ragione Giorello, che è una persona che conosco, che è una persona che non ha nulla a che vedere con Giovanardi. Vabbè, ho capito, allora perché va pure lui a fare il teatrino della politica insieme a Giovanardi? Questo pure mi fa impazzire questa cosa. Uno dice, ho capito, è stato invitato con Giovanardi. Ha fatto male perché lui non si doveva abbassare. Comunque, appunto, dico io, se uno pensa di essere solo una spanna sopra, non è che ci va, no? Cioè, se tu pensi di essere una spanna sopra, non ci va. Però un'altra cosa, non me l'aspettavo quella cosa che ha detto. Dice, sanno a che cosa vanno incontro. Io non l'ho detto. Lei è una persona intelligente, che cosa vuol dire? No, questo l'ho detto, sanno a cosa vanno incontro, sì, gli adulti. Tutti rischiano, sì, sanno di rischiare, ma non vuol coraggio, dire chissà da dove stanno partendo, pur sì, sapendo a che cosa vanno incontro, di partire. Questo vabbè significa, e forse voleva dire questo lei? No, voglio dire, no, che voleva vabbè dire? Giuseppe, quello che ha detto quell'altro, che no, lei lo voleva no denunciare. Voglio dire semplicemente una cosa, che quando uno parte, gli adulti, la maggior parte, sanno che possono morire. Cioè che possono passare da una situazione complicata, molto complicata, qualche volta di disperazione, qualche volta no, ovviamente, a una situazione in cui si perde la vita, si crepa in mare. Questo, semplicemente questo, si assumono un rischio, molto semplicemente si assumono un rischio. Ma questo può essere anche visto in positivo, come dice lei. Cioè, pur di arrivare nella terra promessa, pur di afferrare un sogno, eccetera, eccetera, sono disposti a rischiare la propria vita. Però poi gli stati si devono proteggere, gli stati hanno delle norme, gli stati devono reagire in qualche caso anche con la forza, perché altrimenti nulla è più governabile, altrimenti c'è l'anarchia, altrimenti c'è l'invasione. Aldo, provincia di Torino, buonasera. L'invasione. Sì, l'invasione. L'invasione. C'è Vada. L'invasione. Sì, altrimenti c'è l'invasione. Altrimenti c'è l'invasione, sì. Chiamala come vuoi, ma è l'invasione. Pronto? Allora, sì, tra l'altro Giorello è andato all'area che tira per pubblicizzare un suo Cruciani libro. Cruciani? Sì, vada. Senta, io volevo spezzare una lancia a favore di Berlusconi. Non si può paragonare Berlusconi, mi perdoni. Ho amministrato per 30 anni un comune, non sono mai stato iscritto a Forza Italia. Però tenga presente una cosa, che ho sempre ammirato quello che ho fatto, sia all'Aquila, e che devono paragonare Berlusconi come se fosse un delinquente, questo non mi va giù. E le prometto che dopo 30 anni di amministrazione, senza prendere una lira, mi creda, Cruciani, non ho mai preso un soldo dal comune, ho guidato la mia macchina per conto mio. Un bel momento sentire queste cose contro Berlusconi mi fa proprio rabbia. Un prete che va... che vuol far pulire i gabinetti a Berlusconi, dopo quello che ha fatto per quanto riguarda l'Aquila, mi rude, mi vabbè, fa ho capito, male. Ma che c'entra questo adesso, l'Aquila, non l'Aquila, che vuol dire? Non ho capito. Ma non... cosa voglio dire, Cruciani, abbia pazienza, da 38 mesi che la seguo, tutti i giorni, tutte le sere, è un bel momento, lo ammiro perché lei è una persona squisita. Ma questo cosa c'entra con il suo giornalismo? Ma che la c'entra? Lingua gramma di Parenzo è un pochino squallido perché è una lingua gramma, da noi lo chiamano così. Allora un bel momento dico, io non ho preso mai le parti a Berlusconi, non sono mai stato iscritto, sono un socialdemocratico dalla nascita. Ho pianto per... Vabbè, per però, caro amico mio, si calmi un attimo, perché altrimenti non possiamo tornare, sono socialdemocratico fin dalla nascita, io non so veramente di che si sta parlando. Si sta lagnando del trattamento che riceve Berlusconi in questi giorni anche da preti. No, Berlusconi non è un delinquente, non si deve paragonare Berlusconi a Riina e ai mafiosi, perché non è vero. Guardi, Vabbè, Aldo, qui nessuno... Napoli, va bene, Osvaldo Napoli, sì, certo, mi dico. Io le voglio bene a lei. Anch'io le voglio bene, l'abbraccio, Roberto da Roma, buonasera. Pronto? Sì, dica. Senta, voglio fare una considerazione un po' scorretta. Sì. Lei ha ragione nelle sue affermazioni e glielo voglio anche, diciamo, sottolineare con questa mia, diciamo, riflessione. Premesso che la morte è di ogni persona dispiace a tutti. E voglio dire anche che la maggior parte delle persone, li chiamo persone, quindi sono persone che si imbarcano su questi barconi, lo fanno per una loro libera scelta, è una scelta personale. Diciamo anche che la maggior parte, forse il 90%, facciamo una statistica, sono islamici, e per allora, carità, una religione. Ogni islamico, è la vita di ogni islamico, diciamo, sì, è coordinata, regolata dall'Islam, che e allora? È una religione di Allah. Dunque? Allah ha detto a ogni islamico, io sono onnisciente, onnipotente, misericordioso. Onnisciente, io vedo tutto di te. Onnipotente, io posso tutto. Io decido quando tu nasci e quando tu muori. E allora che vuol dire? La riflessione è questa. Qual è la riflessione? Che Allah ha detto nel Corano, alla sura nona, versetto undicesimo, dice questo: io ho comperato dai credenti. Vabbè, ma che vuol dire concretamente? Tutte le persone, tutti i loro beni, anche la loro vita. Cioè che sono quindi morti per volere di Allah, dice lei? No, Allah ha stabilito di ogni islamico quando nasce e quando muore. Lui, per esempio, il giorno totto, all'ora totta, lui deve morire. Oh, allora vabbè, o si trova in mezzo al mare, o si trova in una cabila, o si trova in un qualsiasi posto, lui deve morire. Quindi l'islamico, quando parte, giustamente fa bene. Monellacci, Monellacci. Che non sono out, questi sono dei cornuti. Eccoci qui, 800 24 00 24. Andiamo a Milano. Roberto, buonasera. Roberto, buonasera. Dica. Io vorrei parlare dei vegani, siccome in Italia i vegani, lei sì, vuole sì, parlare sì, dei vegani sì, c'è pieno di imbecilli che fanno i vegani perché è di moda fare il vegano. Allora vorrei dire attraverso questa radio che il nostro organismo ha bisogno degli aminoacidi essenziali. Allora io non posso pensare che dei ragazzini, dei bambini siano cresciuti in famiglie vegane, perché questi ragazzini crescono pallidi, verdastri e non hanno i fabbisogni nutrizionali sufficienti per crescere. Parenzo, allora io vorrei dare tu, dell'imbecille a tutti i vegani e tutti anche un po' i vegetariani, ma i vegetariani sono ancora accettabili perché almeno il pesce e il formaggio lo mangiano, ma sono quei deficienti che impediscono ai bambini di crescere in modo adeguato perché non danno a loro le proteine animali. Non si può sopravvivere con le proteine vegetali, non si può. Ci sono in biochimica i biochimica? Fermati un attimo. Grazie. Fammi capire, lei telefona alla Zanzara sì, e fa un proclama contro i vegani, un'invettiva, giusto? Sì. Un'invettiva, benissimo. Lei è sano di mente? Per adesso sì. Ecco, come cazzo le viene in mente di telefonare alle 20:01 e dire questa cosa sui vegani? Perché ho visto ragazzini qua sotto casa mia, li ho visti deboli e maciati. Ma chi deboli e maciati? Cosa? Ma perché non chiama ad esempio a Focus Economia? Perché? Perché hanno meno ascoltatori. No, non li hanno proprio, non intervengono, non è previsto l'intervento. Non intervengono, ma perché non le viene in mente di intervenire ad esempio la signora Minoli per dire questa roba qui? Perché viene da noi, perché? Perché viene da noi per dire che i vegani stanno male, lei odia i vegani. Ma perché qualunque pazzo si sente autorizzato a comporre l'8002424 e a dire quello che gli passa dall'anticamera del cervello? Con tutte le cose che sono accadute oggi, perché questo? Io mi chiedo perché questo signore telefona e parla dei vegani? Perché? Sì, perché questi poveri ragazzini sono deboli. Ma non c'è il sì, non c'è il sì, c'è la follia sua, non è il sì, non c'è il sì. Vabbè, adesso, ma perché lei è fissato? Perché lei è fissato con i vegani? No, no, non sono non ero fissato fino a un'ora fa. Adesso ho visto questi ragazzini che purtroppo mi hanno fatto pena, e siccome sono figli di due deficienti che ahimè non li nutrono in ogni modo, questa diffusione, perché ci sono, con me compreso, un sacco di imbecilli in Italia, ebbene, questo è un substrato dove possono crescere tutti questi cretini che si convincono che lo stregone è meglio del medico. Ebbene, questi qui vanno in qualche modo frenati, ma non per loro, che tanto muoiono presto, sono per i bambini, per i ragazzini, per i loro figli. È questi che dobbiamo curare, dobbiamo proteggere noi. I figli dei vegani sono destinati a crescere male, questo voglio dire. Vabbè, Franco da Pavia, caro amico mio, non si può pensare ai vegani alle 8:02, alle 8:02 di sera, chiamare la zanzara, caro Roberto. Franco, Pavia, dica. Pronto, sono Riccardo, ciao, sto tornando da una partita di calcio. Sì. Potresti non dire per 5 minuti delle farolacce? Beh, questo è buono. Lei è un bambino, sta in macchina con suo padre, eh? Giusto? Sì, giusto. Quanti anni hai? Quanti anni hai? 11. 11. 11 anni. Caro caro, passami tuo padre un attimo, Franco. Come ti chiami tu, scusa? Come ti chiami? Ciao Cruciano. Ciao Cruciani, ciao, caro Franco. Cruciani. Sì. Vabbè, caro Franco, cosa vuoi che ti dica? Ti capisco, eh? Cioè, ma succede una volta ogni tanto, quindi il lunedì e il mercoledì, io ti ascolto sempre ogni sera, per me va benissimo così, però il lunedì e il mercoledì e in alcuni casi il venerdì c'è questo sacrificio, ma che non devo fare che con mio figlio. Ma non c'entrano i giorni, per noi, esatto. È sempre uguale, ma che cosa vuoi che sia, un cazzo in più, un cazzo in meno, cioè... non cambia. Vabbè, nulla, poi... è solo una questione di tempo, a 14 anni è tutto finito, cioè... è vero. Però ma al di là di questo, poi ti assicuro che io sono cresciuto in un ambiente dove dove era una bestemmia dire anche alzare la voce, eppure tutti poi tutti poi le dicono, per cui insomma, è evidente che la volgarità, proprio quella così alla fine sotto si sente che sei uno sano, ecco, però vabbè, ci sono dei momenti in cui si va un pochino oltre, vabbè. Perché capita, che devi fare? Devi togliere tuo figlio, devi spegnere la radio? No, cosa faccio? Lo metto nel portabagagliaio? No, niente. Ma al massimo cambio radio e poi ritorno, dai, facciamo così, dai, un compromesso, eh? Non vi ascolto per qualche minuto e poi rientro, va bene? Va bene, grazie. Giancarlo, ciao, Milano, ciao, Giancarlo, dica. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Volevo dire che siamo un paese di merda, ma dopo questo intervento non lo dico più. Comunque siamo un paese di merda, dove si dà spazio a gente che maltratta il Presidente della Repubblica dicendo che è un rincoglionito. Per giunta, ma pure quello prete, è Don Farinella, non l'ho detto io. Sì, va bene, Don Farinella, Farinella o Farinetti, come diavolo si chiama, comunque... e dice che o è rincoglionito oppure non so che diavolo, è impazzito, eccetera. Poi l'altra cosa che volevo dirle è qualche sera fa, io l'ascolto quasi sempre, qualche sera fa lei è venuto fuori con una cazzata delle sue, probabile, sì, una cazzata delle sue, dicendo che tutti quelli che arrivano qui, gli extracomunitari che arrivano qui, sono gente che vengono con le scarpe griffate. Ce ne sono 186. Ma io non l'ho detta questa, ma guardi che no, lei l'ha detto. Ce ne sono 186 in fila. Vabbè. In un lager, lì in una tutti in fila con le barre, tutti con le scarpe griffate. Era qualcuno che l'aveva detto. E ce ne sono altri 100 sott'acqua, che devono ancora portarli su, tutti con le scarpe griffate e con la maglietta di Gucci. Era qualcuno che l'aveva detto. 500 Vabbè. Persone su una barca, su una bagnarola. 500 persone, secondo lei vengono qua perché sono dei ragazzini che vogliono passare, o vogliono fare una passeggiata? Arrivederci. Persone che, guardi, che non vengono, ho detto niente di tutto ciò. Non ho detto niente di tutto ciò. Ho semplicemente detto che un esponente della Lega tempo fa, non mi ricordo nemmeno chi, ma se vuole andiamo a rintracciare, ha detto che questi qua venivano griffati con le scarpe fighe, con le scarpe di marca, con le magliette con scritto Adidas o non so che altro, Nike, eccetera. Questo non era un mio pensiero. Ho riferito della frase pronunciata, credo, da un esponente della Lega, capito? E Parenzo le ha detto che lei è impazzito e ha ragione, perché Parenzo non ha, è per in quello, quel caso aveva ragione. speculare per fare spettacolo su 200 e rotti morti è vergognoso, no, vergognoso. Morti, va bene, va vergognoso. Bene. Va bene, io non faccio nessuno spettacolo. Fabio da Roma, sì, lo faccio, ma non è che lo faccio sui morti. Fabio da Roma. Cusani. Dica, sì. Vorrei chiederle, secondo lei, quale consiglio può dare a una persona che non ha mezzi di sostentamento e che né per sé né per la sua famiglia? Qual è il suggerimento che dà? Cosa può fare questa persona in particolare? Guardi, può fare quello che vuole, scappare, cercare fortuna altrove, cercare è ovviamente disperato. Altrove, come sì. Cercare fortuna altrove, salendo dove vuole, eccetera. Gli stati hanno diritto di proteggersi da tutto questo, ha capito? Gli stati democratici, gli stati che usano delle leggi, altrimenti è l'anarchia. Dopodiché poi ci sono delle norme che riguardano l'accoglienza, l'asilo, lo sappiamo, eccetera. Però non, la cosa indiscriminata... Bisogna proteggersi, lo fanno tutti in Australia, in America, in Spagna, lo fanno tutti. Tutti hanno leggi molto più dure di quelle italiane. Ma in tutta la storia dell'umanità. Ma non è che proteggersi da un... Vabbè, d'accordo. Allora apriamo le frontiere a tutti, come dicevate ieri con Gino Strada. Parenzo e Gino Strada dicevano apriamo le frontiere a tutti. Apriamo le frontiere a tutti. Così siete contenti? Cosa vi devo dire? Non è nessuno ha detto aprire le frontiere a tutti. Chi scappa per fame e per problemi politici nel proprio paese... non è un criminale come vuoi far credere tu, perché paga i trafficanti della morte, pagano 2000 euro per attraversare il mare e non per fare una crociera con le ballerine. Va bene, perché Paolo dalla provincia di Alessandria, fammi sentire Paolo dalla provincia di Alessandria. Sì, buonasera Crociani. Dica, intanto hanno approvato un emendamento in commissione, credo al Senato, dove si elimina il reato di immigrazione clandestina, in commissione. Sì, ancora. Paolo. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Volevo solo chiedere appunto conto all'esimio Parenzo, come mai due pesi, due misure? Mi spiego. Berlusconi, cosa sacrosanta che andrebbe insegnata a catechismo e con le tabelline, veniva insultato a ogni piè sospinto. Perfetto, andava bene. Napolitano, allora? Una volta sola, fino adesso, è stato tacciato di essere rincoglionito e mi sembra che abbia anche dato ampia dimostrazione di rincoglionimento. Vabbè, secondo lei è rincoglionito, sì, vabbè, e secondo Don Farinella, non è che è un dato oggettivo, non è che sia un dato oggettivo. Però allora io potrei rispondere, non era un dato oggettivo neanche quello di Berlusconi, non si doveva insultare neanche lui. Come mai insultava Berlusconi, era un santo? Ma guarda che Parenzo si arrabbiava pure quando insultava Berlusconi, semplicemente perché era un prete. Io non me lo ricordo, Io non me lo ricordo che difendesse Berlusconi. Ma no, difendesse quando lo attaccava Don Farinella, capito, Paolo? Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Sei ancora a casa, Simo? Retourne chez toi. Cucù. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Siamo qui 800 24 00 24, la zanzara, caro Parenzo. E abbiamo combinato un altro guaio, ne abbiamo combinato un'altra dalle nostre. Mettiti bene questo telefono e collegati meglio, perché non si capisce una sega come al solito. Allora, cosa è successo? Cosa è accaduto? È accaduto che abbiamo pizzicato Don Mazzi. Sai chi è Don Mazzi? Sì, il presidente della Comunità. Don Mazzi, certo, quello che ha già in affidamento il signor Mora Lele. Sì, il presidente della comunità Exodus, il quale ha detto nei giorni scorsi che vorrebbe che Berlusconi raccogliesse i pomodori, che Berlusconi pulisse i cessi, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché noi l'abbiamo fatto contattare da chi? Da un finto avvocato Ghedini. E lui ci ha creduto, perché oggi ha dichiarato ai giornali che lo hanno contattato i legali del Cavaliere. In realtà era uno scherzo della zanzara. Sentiamo. Pronto? Don Mazzi, buonasera. Buonasera. Le passo l'avvocato Ghedini, posso? Ok. Grazie. Sì, pronto, è Don Mazzi? Pronto, buondì. Cioè, buonasera. Salve, è l'avvocato Nicola Ghedini, l'ho disturbata? No. Salve. No, la chiamavo per conto del presidente, come immagina. perché abbiamo valutato positivamente, tra le tante richieste che sono arrivate in questi giorni, la vostra, quella della vostra associazione. E quindi, insomma, è chiaro che il presidente è rimasto contento, anche se avremo una serie di... Le battute, ma sono battute, mi conosce bene il presidente, Ma lo so che la conosce bene, ma chiaramente, visto che il presidente evidentemente è preoccupato per la situazione che si è venuta a creare con quello che succederà in futuro, è chiaro che dobbiamo, come dire, poter avanzare alcune richieste imprescindibili, no? Esempio, sì, dai. Beh, per Pronto? Esempio, no, abbiamo letto l'intervista della raccolta sulla raccolta dei pomodori. Insomma, sì, ti ricordi? No, ma ti ricordi che stiamo parlando... Com'è partita? No, ti ricordi che stiamo sempre parlando di un uomo... Sta diventando una menata che non finisce più, perché è chiaro che non viene a piantare i pomodori, dico. Beh, ma qualunque cosa faccia, il discorso che, vabbè, bisogna tener conto innanzitutto che è un uomo di 77 anni, quindi evidentemente... Sì, sì, sì. Io ne ho 84, quindi sai, non è che... E poi, naturalmente, qualora si trovasse nella situazione di dover pulire dei bagni, naturalmente attenzione alla polvere, perché... Ma no, il problema vero è che i nostri ragazzi la mattina hanno la camera... E quando si alzano fanno la camera. Ecco, a proposito delle stanze, le stanze sono decorose, ci auguriamo, no? Sì, sì, sono belle, quindi gli daremo la camera, non ci sono problemi. Sai, insomma, il presidente è che loro la mattina si alzano, fanno 40 minuti di footing, fanno la colazione e poi vanno su e si fanno le camere, è tutto lì, insomma, mi spiego. Un uomo di 77 anni invece che la camera fa la lui, capito? Il problema è tutto lì, insomma. Un'altra Pronto? Cosa però non da poco, nell'ottica del presidente, è quello che riguarda anche il menù, la cucina, no? Quello che è, insomma, non ci sono problemi. Qui abbiamo un po' di tutto, poi adesso vedremo qual è il posto più adatto a lui, non lo so neanch'io. Sono anche delle donne, naturalmente, la questione è spinosa, però è chiaro che... Quindi ci sarebbe anche la possibilità reale di poter portare la compagna, la Francesca, qualora volesse... La domenica, noi la domenica, ogni domenica noi abbiamo le visite dei parenti. Per quanto riguarda invece, ecco, il cane Dudu di cui si parla, il Presidente deve sapere, è molto affezionato a questo animale e naturalmente si chiedeva se era possibile... Abbiamo animali di tutti i tipi in comunità, quindi non ci sono problemi. Ma lui vuole proprio il suo cane. sì, no, ma dico, bene, anche il suo cane, certo. Abbiamo gente che ha il loro cane, no? Che hai capito, quindi non ci sono problemi. Poi allora, possiamo anche vederci meglio, ma sono le due o tre battute che poi sono diventate, sapete come sono fatto io, poi davvero un mese matto, poi mi godo a morire. Ho capito. Senta, ci risentiremo più avanti. Io la ringrazio, dottor Mazzi, è stato molto gentile. Per carità, saluti. Arrivederci. Amici miei, una cosa è quella che dice Don Mazzi alle radio, alle televisioni, poi pizzicato da un finto Ghedini dice no, ma Berlusconi, pomodori, le cose, non farà questo, non farà quest'altro, può fare tutto quello che vuole, il menù tricolore, vabbè, dai. David Parenzo, sempre in collegamento con noi, abbiamo niente proprio di meno che il direttore del giornale, non so ancora per quanto, Alessandro Sallusti, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Benissimo. Finalmente. Dopo aver sentito Don Mazzi un po' meno bene. Ma... Beh, Don Mazzi sa, dice che fa battute, che lui gode a fare le battute, a spararle su Berlusconi. Che vuole fare? È così, è fatto così. Ma io immagino che se Don Mazzi avesse lavorato in vita la metà di quello che ha lavorato Berlusconi sarebbe già una cosa... Cioè, sta dicendo che Don Mazzi non ha fatto un cazzo. Cioè, Alessandro, stai dicendo che Don Mazzi è praticamente uno che non fa niente nella vita, ormai va solo in televisione a sparare minchiate, non ho capito. Esattamente quello. vabbè, però, insomma, tu dici non si può fare ironia... questa è interessante. Si può fare ironia sui servizi sociali a Berlusconi oppure sciacallaggio? Perché qui bisogna decidersi o no? Ma no, l'ironia si può fare sempre, quella di Don Mazzi non è ironia, è la rabbia di un vecchio, la rabbia di un vecchio invidioso, perché Berlusconi ha fatto... Sì, voglio dire, Berlusconi ha aiutato altre comunità in maniera molto importante, probabilmente e giustamente non ha aiutato lui, e quindi c'è questa rabbia che va a fare l'ironia sui suoi finanziatori, c'è il coraggio. Perché quello è il punto, tu dici, siccome non gli ha dato i soldi, allora si è scatenato contro Berlusconi. Può esserci del vero però, può esserci del vero. Dopodiché dico che fare ironia su una, comunque nonostante sia Berlusconi un personaggio pubblico, ma fare questo tipo di ironia così volgare su comunque una limitazione della libertà, ecco, una cosa che da un prete, quantomeno da un prete, non me l'aspettavo. Senti una cosa, ma hai incassato ormai in maniera definitiva questo smacco pazzesco di questa posizione presa dal tuo giornale sulla vicenda di Berlusconi? Hai recuperato oppure sei ancora un po' sotto shock, come dire? A me sembra che lo smacco l'ha preso chi ha chiesto il mio licenziamento, e fino a tarda serata di martedì non l'ho ancora ottenuto, quindi c'è qualcuno non che continua, nessuno smacco. C'è qualcuno che continua a chiedere il tuo licenziamento, questo è più importante, al di là no, dello è stato che mi risulta, ho letto, io non lo so, non ho letto questa riunione che è stato chiesto, non essendo stato ottenuto lo smacco non è mio. Cioè Alfano continua a chiedere il tuo licenziamento, stiamo parlando, questo vediamo. Non lo so, non lo so. Però l'ha chiesto, però l'ha chiesto. Mi risulta che l'abbia chiesto. Ma chi è che alla fine ha detto di no? Paolo Berlusconi oppure Silvio? Cioè come è avvenuta la cosa? Adesso qualcosa rivelaci di questa roba qua, perché lo sai sicuramente. Cioè chi ha fatto la telefonata? C'è stata una riunione in cui Alfano ha detto voglio la testa di Sallusti e Berlusconi ha detto di no, oppure Berlusconi ha detto al fratello che fai tu, decidi tu. Cioè come funziona? No, io non lo so davvero come è avvenuta. So che quando i giornali hanno pubblicato questa notizia l'editore, cioè Paolo Berlusconi, ha fatto un comunicato dicendo che non aveva intenzione di cambiare il direttore. Qualche cosa si sono detti tra fratelli, onestamente non lo so. No, però voglio dire, mi riguarda, io riconosco, se c'è una cosa che riconosco agli editori, quindi come ai padroni, insomma, agli azionisti di maggioranza che possono fare quello che vogliono. La roba del giornale è loro, non è mio. No, certo. Ma chi ti ha salvato alla fine? Siccome c'è qualcuno che è il vincitore, che chiede la tua testa, chi ti ha salvato? Berlusconi? Cioè Berlusconi ha impedito dal Fano che fosse licenziato? Spiegami un po', almeno questo sì, si può dire. No, ma non lo so, non è che non lo so perché dico che non lo so, lo so. Non lo so perché ovviamente mica vengono a dirlo a me. Se è vero che Alfano l'ha chiesto a Berlusconi e la cosa non è accaduta, vuol dire che quantomeno la cosa si è fermata lì, cioè che Berlusconi non l'ha mandata avanti. Ma Travaglio, che ti ha difeso, è più liberale di Alfano secondo te? È più paraculo, cioè il nemico del mio nemico è mio amico, quindi per andare contro i suoi nemici, in questo caso Alfano, si alleerebbe con chiunque. Ah, questa è la cosa. Poi forse gli conviene avere un direttore del giornale più battagliero e meno moderato, diciamo, anche allo stesso Travaglio, no? Cioè, può continuare, no, a prenderti in giro? Sia al giornale che a Travaglio conviene avere Berlusconi saldamente in sella, sia pure magari al centro di polemiche pazzesche, perché l'andamento delle vendite del giornale, dei giornali, soprattutto del suo e del mio, sono proporzionali all'attenzione su Silvio Berlusconi. Cioè, se Berlusconi resta in sella, anche il giornale vende di più, questa è la cosa. Cioè, Alfano farebbe sì, è così anche il fatto, ovviamente, perché è un nemico. Parenzo, che c'è? No, voglio dire, intanto straordinaria la battuta del direttore Sallusti su Mazzi, liquidato come un vecchio prete. Vecchio sicuramente è vecchio perché c'è oltre 80 anni. Prete. No, ma voglio capire, una bella intervista ad Alfano, perché non la ospiti sul tuo giornale? Adesso vado così, mostrando grande senso di libertà. Alfano, ti voglio. Vabbè, se me la facesse molto volentieri. Ma ne hanno fatte 200 milioni. Non ho problemi a ospitare l'intervista ad Alfano. Sallusti incontra Alfano, proprio un match sulla carta. Ma non credo che hai molto piacere incontrare Alfano, secondo me, o no? No, io immagino che Alfano non ha molto piacere incontrare Sallusti. Io l'ho appena ospitato come ospite d'onore nella convention del giornale a Sanremo, l'ho intervistato per un'ora e mezza, baci abbracci, io non ho nessun problema con Alfano. Beh, bacio, abbraccio, e poi il giornalista e non il politico. Beh, io beh, però, però diciamo che secondo me la tua ti candidi prima o poi, o no? Dillo, se mi piacerebbe candidare. Sì, sì, sì. Ho fatto sì. abbastanza danni nel giornalismo, non intendo farne in politica. E poi guarda, tutti i giornalisti che sono finiti in politica hanno fatto una brutta fine o una mediocre fine, quindi. Beh, anche Minzolini, vuoi dire? Beh, insomma, Minzolini era il direttore del TG1, adesso è uno degli 80 senatori del centrodestra. Non capisci un cazzo. Cala, cala. Beh, cala, cala, professor Dell'Utri, cala, cala. Siamo qui, 800-24-0024, con David Parenzo e con il direttore del giornale, Alessandro Sallusti, che non mi sembra, caro Parenzo, come dire, particolarmente triste, no? Ma per queste... No, ma vabbè, mica ho capito. Fa mettere i piedi in testa da un Alfano qualunque, il signor Sallusti, ma stai scherzando, è una battaglia. Ho ma capito. Ti pare che Alfano gli fa... è come un mica un leone, un gattino per lui. Beh, no, adesso, Alfano adesso è l'uomo più potente del PDL, è quello che vuole fare il repulisti. Ma adesso l'ha intervistato alla convention del giornale. Ma quello prima, ma ti ha annoiato moltissimo. Senti, dai, Alessandro, ma è vero che vuole fare un repulisti all'interno del PDL, anche la tua compagna Santanchè, teme, cioè vuole fare proprio piazza pulita, sì o no? Immagino di sì, lo ha detto, sia pure non credo in maniera pubblica, ma in maniera non pubblica, lo ha detto, risulta l'abbia detto, quindi credo che proverà a farlo. Ma tu li definiresti ancora, come li hai definiti, traditori? In un mitico Beh, sì, certo, assolutamente, sì. In quel giorno sicuramente, adesso mi sembrano un po' meno traditori, mi sembrano più... più disposti a non tradire. Quel giorno fu un tradimento. Dove porteranno Berlusconi i vari Quagliariello, Alfano, i moderati, i cosiddetti moderati, che poi bisogna vedere sempre cosa si intende. Dove lo porteranno, secondo te? Perché lui ormai pare essersi affidato ad Alfano in maniera quasi definitiva, diciamo, poi non c'è mai nulla di certo con Berlusconi, però... Ma credo che lo porteranno fuori dalla plancia di comando della politica nella maniera meno traumatica possibile, però fuori. Il loro obiettivo è quello di portare fuori Berlusconi dalla politica, insomma, accompagnare Berlusconi fuori dalla politica. Immagino di sì, è quello che si intuisce. Cioè per loro è un ingombro ormai. Sì, sì, sì, c'è anche qualcosa di, come dire, dal punto di vista umano, personale, di legittimo, cioè anche i figli o gli eredi delle grandi dinastie a un certo punto chiedono, sperano, si augurano che il capostipite si faccia da parte, perché è un'aspirazione legittima quella di prendere il posto. Però bisogna, molte dinastie sono precipitate, sono fallite proprio sul fatto che gli eredi non erano all'altezza del fondatore. Allora non so se in questo momento questo gruppo di politici che legittimamente aspira a prendere il comando delle operazioni possa ottenere gli stessi risultati. Ma Marina Berlusconi sarebbe in grado invece, secondo te? Ma l'altro giorno, non mi ricordo quale rivista, l'ha definita la ventesima donna più importante al mondo, quindi questo qualcosa vorrà dire. E dopodiché c'è una, come dire, c'è anche una suggestione mediatica, perché tutti questi signori fanno i conti senza preoccuparsi di confrontarsi con le urne. Poi a un certo punto i voti vanno raccolti, cioè uno può avere anche la ricetta migliore di questo mondo. Cioè tu dici tra Marina Berlusconi e Cicchitto, cos'è successo a Monti, cos'è successo a Fini, cioè la politica si fa coi voti. Quindi io, cioè, tra Marina Berlusconi e Alfano, chi c'ha più voti? Tra Marina Berlusconi e Alfano prenderebbe molti, ma molti più voti Marina Berlusconi. Capito, Parenzo? Hai capito? È chiaro? Tutto chiaro? Volevamo sapere però dal direttore se ha riparlato più con Cicchitto, perché quell'epico scontro a Ballarò è entrato nella storia quasi degli scontri. Guarda, non mi spaventi, guarda che non mi spaventi, guarda. Bene. Non ho parlato con Cicchitto, ma non ho avuto occasione di parlarci, immagino che se lo incontro li parlo. Però un po' riconosci che non si è fatto infinocchiare. Non mi faccio rammellare da te, guarda. No, ma Cicchitto, ma io non avevo nessuna intenzione di infinocchiare Cicchitto. Cicchitto tra l'altro è uno tosto, non è che stiamo parlando di un ragazzino sprovveduto, è uno che anche dialetticamente non è uno che si tira indietro. C'era uno scontro di posizione, non uno scontro Ma alla fine, se ti mandano via, dove vai? Che fine fai? Ti devono dare un sacco di soldi, innanzitutto. Ti devono dare un sacco di quattrini. Chiederò a Parenzo un aiuto, perché non, credo che ha un grande mercato, sul mercato dell'editoria assimilata al potere, al neopotere, non credo di avere... Ah, non avresti più mercato. Cioè resteresti senza lavoro, secondo te? Difficile, difficile. Beh, sarebbe una probabilità che credo abbastanza... Ma oggi quanto guadagni? Guadagni almeno mezzo milione, sì, guadagni, si possono dire. Facciamo una operazione di grande trasparenza, 600-700 mila, su, come Feltri. Feltri ce l'ha detto una volta, 700 mila, su, 700 mila. Siamo più alti di Feltri, un milione. Circa. Dai, facciamo un'operazione di trasparenza. Beh, Alessandro, lo guadagnerei molto volentieri un milione, purtroppo non lo guadagno. 800? Neanche la metà. Neanche la metà, che siamo? 400? Vabbè, facciamo un'operazione di trasparenza, dai. Ma no, ma c'è nessuna trasparenza, sono in un'azienda privata e saranno affari miei. Vabbè, questo sicuro sono affari tuoi, cioè, noi siamo abituati a tirare fuori quello che gli altri non vorrebbero dire. Dunque, non ci vuoi dire il tuo stipendio? No, ma questo proprio non lo voglio dire. Quindi... Ma io lo posso dire, per esempio, il mio. Ma anch'io una dichiarazione dei redditi. Che ne so. Berlusconi mi paga 400.000 euro l'anno. Mi pare uno stipendio adeguato per il direttore generale. Parenzo, secondo te quanto guadagna? Beh, ma così io non ho... È come un privato che lo paga, ma è magnifico. Gli piace così. Ma Feltri è vero che guadagna, Feltri è vero che guadagna 700.000? Io non ci credo. Vabbè, non è assunto. Ma io non lo so cosa guadagna Feltri. So che una volta che passò la storia, un giornale scrisse, siamo nei primi anni 90, che era il primo direttore italiano a guadagnare 800 milioni dell'epoca. Sì, sì, e sì. Lui mandò una lettera di smentita dicendo, minacciando la querela, dicendo che lui guadagnava più di un miliardo. No, però è stato coi soldi è stato più bravo di te, è stato sempre più bravo. Beh, di no, te. È un genio. Io affiderei, io sono incapace di qualsiasi trattativa, affiderei volentieri le mie trattative i miei contratti a Vittorio Feltri. Sarei ricco, probabilmente. Vabbè, comunque non ci vuoi dire quanto guadagni. Grazie Alessandro Sallusti, grazie di essere stato con noi. Ciao, ciao, ciao. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai, lei non dà tregua, sai, finché non punge lei tranquilla non sarà. Allora, siamo qui, 800-24-00-24, Giuseppe da Bari, buonasera Giuseppe. Non c'è, allora andiamo con Napoli, Massimo. Ciao, buonasera Giuseppe. Dica. Buonasera Parenzo. No, io ciao, pensavo di fare una proposta, forse si arrabbierà Parenzo, però che ne pensate di cedere Lampedusa alla Tunisia? Così ci risolviamo due problemi con uno. Almeno sbarcano in Tunisia e stanno a casa loro. Non ho capito, scusi, può ripetere? Pensavo, come proposta per risolvere il problema di Lampedusa, sì, di cederla alla Tunisia o regalarla alla Libia. Così sbarcano sempre in Africa e non ci sono più problemi. Ah, lei dice cediamo Lampedusa a un altro paese e così ce ne sbattiamo i coglioni. Potrebbe essere pure Africa, perché sta più giù di Algeri, di Tunisi, quindi è facile. Questo signore razzista, dove lo hai? Ma perché è razzista? Non ho capito, perché è razzista? Perché sono razzista? Io sto cercando di dare un'opportunità a delle persone. Lei arriva da una sede... Tenga presente dove che... arriva questo signore? No, ma non ha detto una cosa sbagliata, però. È una provocazione. Ha detto, diamo via... Puttanata. No, ma sarà una puttanata, eccetera. Però è una provocazione curiosa. Cioè, uno dice... Come quelli che dicevano, facciamoci invadere dalla Svizzera. È una provocazione, una puttanata. Cioè, sì, da dire una... cose con il loro nome. Sì, d'accordo, però... improvvisamente diventa una roba intelligente quella di un signore, un quisque del popolo. Ma vorrei dire, mi scusi, e dice buongiorno, buonasera signor Cosciani, bisognerebbe dare Lampedusa agli africani. Ma si può essere io, ma quando uno fa quel numero, cioè compone quel numero sulla tastiera elettronica del telefono 800 24 00 24, quando lo compone, oltre a comporre il numero, sì, manderà anche degli impulsi ai neuroni che sono dentro il cervello o no? Compone automaticamente il numero. Dica. Posso rispondere. In realtà ieri abbiamo visto, c'è stata questa rivoluzione che si sono arrabbiati perché sono stanchi di stare in quel posto lì. Sì. Quindi credo che non sia neanche troppo corretto, visto che quella popolazione... Ma sono stanchi, chi è stanco? Gli immigrati, no? Che hanno fatto la protesta, hanno inscenato la protesta per queste cose. Allora, tanto vale che se ne tornassero a casa loro, visto che non si trovano già bene. Sono da due giorni là, si lamentano che hanno le punture degli insetti. Ma vorrei capire, nel deserto lì non ci sono insetti? Va bene, grazie. Samuele da Verona. Buonasera, Samuele. Non si sente niente. Gianluca da Pescara. Salve, buonasera. Buonasera, dica. Guarda, io volevo intervenire sulla questione gay, rapidissimamente. Non so se notate la stessa cosa che noto io, cioè il problema di rapportarsi con i gay è quasi esclusivamente un problema, se mi passi la parola, di alto locato culturali. Cioè, che vuol dire? Scusi, ma non parli troppo difficile, Gianluca? Non ne parlo difficile, non sapevo come spiegarlo. Cioè, ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Io che sono un poveraccio, io che sono un povero uomo, non mi faccio problemi ad esprimere quello che penso nei confronti dei gay e nessuno se la prende con me. Ogni volta che lo dovete fare voi, lei compreso, c'ha qualche problema. No, non ho capito. Continua a non capire. Parli chiaro. Faccio un esempio specifico. Allora, proprio l'altro ieri mi trovavo in uno studio professionale della mia città. Molto sì, ma non dobbiamo fare il racconto del secolo. Dobbiamo chiarire. Lei ha un pensiero, ha una cosa chiara, comprensibile quando a tutti. Quando io esprimo il mio parere sui gusti miei sessuali in presenza di un omosessuale, non mi faccio, non mi creo e non me ne frego un cazzo di quello che pensano gli altri. Vabbè, allora. Ogni qualvolta che lo fa una persona culturalmente più elevata di me, diventa un problema. Ma non ho capito niente, ma non ho capito nulla. No, non riscontro nulla. Beppe da Bari. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzio. Roba da matti. Ciao, cari. Io volevo ricollegarmi un po' a quello che diceva il collega radioascoltatore di Napoli, il quale diceva regaliamo Lampedusa, la Libia, la Tunisia. Sono d'accordo con Parenzio, è un discorso xenofobo, razzista. Vabbè, poi? Per cui il problema è all'origine, non è la repressione che risolve il problema. Non è la repressione che risolve il problema, invece l'accoglienza, così, il senso di fratellanza, prendiamo tutti, venite, risolve il problema. No, intanto quello è un male estremo a cui bisogna intanto intervenire e porre rimedio. Bisogna bloccare le barche che partono, Guarda, Giovanotto che parli da Radio 24, altrimenti detto Cruciani, caro il mio Giovanotto, chi scappa per ragioni di fame non è un criminale. Ma chi ha detto che è un criminale? Ma ho il diritto, ma lascia perdere queste robe. Ho il diritto, a bloccare, a impedire che questi qua arrivino e a regolare il flusso, sì o no? Ho il diritto di farlo. Scappa per fame non è un criminale. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Ma lascia perdere, ma quello serve. Servono tutte le cose dure, tutte le leggi dure servono. Che chi ha fame è un criminale. Ma non ho detto questo, su. Sì, certo, se c'è un reato di immigrazione clandestina è evidente che è come considerare criminale chi ha fame. Vabbè, stai tranquillo un attimo, che abbiamo la segreteria, quelle cose moderate che ci sono nella segreteria telefonica. Complimenti a Napolitano per quello che ha detto sul Movimento 5 Stelle, proprio lui che è un traditore, che ha tradito la patria vendendolo alla Germania quando ha nominato Monti, il servo della Germania, il servo dell'America e il membro del Bilderberg. Napolitano dovrebbe essere preso e processato per crimini nei confronti del popolo sovrano italiano. Buonasera, dottor Cruciani. Condivido tutto l'intervento di Gino Strada. Lei deve imparare a diventare uomo, quindi ascolti quello che le è stato detto da una persona che l'umanità la vive ogni giorno. Ancora il problema delle carceri. Ma non c'era stato Pannellone, oggi Pannolone, che aveva fatto lo sciopero della fame? Ah, adesso ricordo bene. Non era morto per la fame, per i carcerati. Aveva iniziato a mangiare prima, non ce l'aveva fatta. Signor Parenzo, signor Cipriani, vi voglio dire una cosa. Viva, viva, viva Silvio Berlusconi, che ha la minchia sempre grossa. Viva Silvio Berlusconi, invidiosi! Ti segnalo un lapsus interessante. Oggi alle 13 la speak di Radio Rai Radio 1 disse arriva anche ai carceri, poi se ne è accorto che ha sbagliato e dice arriva anche alla Camera l'emergenza carceri. E visto che forse questo era un po' troppo pesante, alla fine di tutto il radiogiornale alle 13:20 ha dovuto ripetere la frase correttamente, lentamente, per essere chiaro. Ciao! Parenzo, ma come cavolo ragioni? Ma come? Tu sei quello che non vuoi curare i nazisti, i talebani, e poi fai un bel indultino, li tiri tutti fuori, tiri tutti fuori i delinquenti di in galera. Vabbè, fa un rosso di pugnette, va. Ecco, io direi di vendere l'isola della Medusa a qualche emirato, a qualche stato dell'Africa, a qualche così risolviamo il problema dell'immigrazione e ci prendiamo dei soldi e diminuiamo anche il debito pubblico. Ciao! Siamo qui con Andrea da Roma, un po' meglio la telefonata di oggi, ragazzi, un po' meglio, leggermente meglio, leggermente meglio. Pronto, Giuseppe. Andrea da Roma, vai. Ciao, buon pomeriggio a te e sì, Parenzo. Buonasera, sì, sì, siamo buonasera, già buonasera. Siamo quasi alle 9, dai. Allora, no, io allora vi chiamavo perché spesso vi sento nominare anche Barisoni, perché comunque i freak telefonano a voi, non telefonano a Barisoni. Poi ho voluto dare una faccia a voi, a te, Parenzo e Barisoni. Non è complicato. Allora, su Google, non è complicato, però, sai, se uno non ci pensa, vabbè, non allora viene spontaneo. Allora, su Google ho cercato le immagini per Giuseppe Cruciani, David Parenzo e Barisoni. Vabbè, allora. E lì vengono fuori tutte le risposte, nel senso che se uno cerca Giuseppe Cruciani escono fuori per il 80% foto di culi e tette e tranci vari di Selvaggia Lucarelli. Comunque sembra più, cioè non è l'immagine che si aspetta di ritrovare di uno che fa il giornalista. Quindi ecco, è questo, insomma, nel senso, più che donne con un alto quoziente intellettuale inversamente proporzionale alla misura del reggiseno. Ha parlato Parenzo, ha parlato invece, no? Ha parlato il genio, ha parlato il professore. Lei valuta le persone attraverso quello che esce da Google, ma siamo veramente... Però cioè, se io sono un personaggio pubblico e su Google mi rappresentano solo immagini... Sì, guardi, a me quello che esce da Google non me ne frega un cazzo. Io lo posso dire molto sinceramente, quello che viene pubblicato su Google, quello che esce fuori dai social media, quello che non me ne può fregare di meno. Io non credo di non aver mai fatto il mio nome dentro Google per vedere che cosa esce. Non me ne può fregare di meno. Se a lei interessa invece, perché è un maniaco, perché è bagato in testa, perché c'ha tempo da perdere, perché vuole, perché c'ha queste pruderie, perché è così, no? Perché vuole sapere i fatti privati delle persone, quello che scopa con quello che scopa con l'altro, lo faccia, ma non è affare mio, ha capito? Io non ho mai fatto il nome di qualcuno su Google, ha capito o no? Ma io volevo solo, ero curioso di sapere. Ma sì, ma lei può fare tutti i paragoni che vuole, lei può fare tutti i paragoni che vuole, può dare tutti i giudizi che vuole sulle persone, noi lo ospitiamo per questo, forse anche troppo, prima o poi ce lo impediranno. E poi, e quindi questo, cioè, mentre per esempio Barisoni sono tutte immagini istituzionali, cioè la cosa più eccitante di Barisoni era un convegno, credo, di Confindustria. Appunto, cioè, questa la differenza è proprio questa. Grazie, perché... grazie. Parenzo, ci sentiamo domani, 18:30. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Cruciani, Parenzo, ciao. Sanare dal nero mantello, ciao. Il vostro programma, sei bello, ciao. Sollazzateci ancora di più. Non mi metta giù, guarda che c'è impegno, Cioè, perché io vi voglio bene, ecco. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E un gatto, che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.